benvenuti a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Salute e Felicità. Ancora una volta ci ritroviamo dopo questo agosto che ha visto questo contenitore davvero impegnato sul territorio in differenti festival, con i risultati sempre comunque buoni per chi non si scorda mai di ricordare che insomma era la prima estate appunto al lavoro, e estate e lavoro sono due parole che raramente vanno bene nella stessa frase. In ogni caso, senza dubbio, come dire, i risultati ci sono stati, avrete modo di sentirli sicuramente durante tutto quanto l'anno nelle varie trasmissioni e nel nostro, nelle nostre playlist random. Allora, insomma, anche qui frodo.noblogs.org ha traghettato l'estate, un'estate sicuramente impegnativa, ma insomma non ci si ferma mai oramai. Qual è il leitmotiv l'abbiamo capito. Oggi, come vi dicevo, lo spottino che ho messo all'inizio della puntata, innanzitutto vi introdurrò un paio di novità. Innanzitutto avremo una nuova sigla iniziale e una nuova sigla finale per Salute e Felicità. Naturalmente quella iniziale la sentirete subito dopo e quella finale appunto alla fine di questa puntata. E sarà una puntata molto sobria, molto a toni bassi, sia per restare in tema con quello che è quello che stiamo facendo tutti, insomma, cioè provare a rientrare piano piano nelle nostre vite, ricominciando i milioni di lavori che già, insomma, promettono più o meno bene, insomma. E comunque è una puntata anche segnata da uno spiacevole evento, la morte di Marcella Di Folco, che è stata per tanti anni la presidentessa del movimento Identità Transessuale, appunto, che ha sede a Bologna, e insomma un personaggio davvero molto, un personaggio di spicco della politica LGBTIQ in Italia. Avrei voluto farvi ascoltare un pezzo dell'intervista che Federica Pezzolis, una videomaker che lavora qui a Roma, ha appunto postato su YouTube, in cui intervistava nel 2009 durante il Pride Marcella Di Folco. Purtroppo non sono riuscito a estrapolare il file audio, e quindi vi consiglio di andarvelo a spulciare voi. Basterà scrivere appunto Marcella Di Folco e troverete subito Federica Pezzolis e Marcella Di Folco e il canale di Federica, che comunque a mio avviso è davvero interessante e lei lavora molto bene. Insomma, una puntata sobria, non comincia benissimo questo anno in Italia, a parte la scomparsa di appunto Marcella Di Folco, ma questo governo che sale e scende, un giorno sono litigati, un giorno stanno bene insieme, il giorno dopo no, insomma continuano a reggere banco da soli loro, mentre di opposizione neanche l'ombra. E se la soluzione ai problemi d'Italia si chiama Nichi Vendola, diciamo che stiamo davvero alla frutta. E quindi ci ascoltiamo oggi un bel po' di musica, giusto qualche intervento ogni tanto, però davvero tanta musica e tanto relax. Un buon ascolto a tutti e a tutte, siete collegate con Salute e Felicità su transizionedifase.org. j'ai de l'imposture. On a ceux qui parlent de ce qu'ils font, ça c'est dur. Avec ceux qui sont nés pour faire ça, c'est sûr. C'est cela qui nous mène la vie dure. Dans le même style de l'imposteur, on a ceux qui pensent avoir du cœur, une tête, une âme de voyageur. Et trop de mélange, ça c'est des couleurs. Chantera souvent, faites à toute heure charlatan. Je pense tout ça être à l'image de vous, de notre grand cinéma. Mourir d'amour, je veux dire, oh, c'était pas pour vous fuir. Juste un mot pour vous dire, c'était pas pour vous. Mourir d'amour, je veux dire, oh, c'était pas pour vous fuir. Juste un mot pour vous dire, c'était pas pour vous. On a ceux qui parlent de ce qu'ils font, ça c'est dur. Avec ceux qui sont nés pour faire ça, c'est sûr. C'est cela qui nous mène la vie dure. Dans le même style de l'imposteur, on a ceux qui pensent avoir du cœur, une tête, une âme de voyageur. Et trop de mélange, ça tue les couleurs. Et moi, grand chanteur, à souvent, en fait à toute heure, charlatan. Je pense tout ça être à l'image de vous, de notre grand cinéma. Dégagez. mes yeux lorsque tu me garantissais. Il futuro non sono più niente, non soltanto i terremoti, ma le guerre, le ingiustizie, il languore della fame, come se fosse giusto, come se niente fosse, e dispersi in mare gli innocenti in galera, la fatica, il dolore e ancora la fame, come se niente fosse. La crisi c'è, la crisi non c'è, diciamo che se c'è qualcuno che sicuramente a questa domanda sa rispondere e sta provando a rispondere davvero ormai da anni, però con particolare fervore in Italia in questo periodo sono i precari della scuola, insomma, che ormai, se non sbaglio, insomma, una delegazione da Palermo è sotto Montecitorio a dormire con le tende sotto il Montecitorio, sì, a dormire con le tende tutto agosto e insomma la mobilitazione all'interno delle scuole che stanno per cominciare o sono già cominciate in qualche sparuta regione non sembra fermarsi. Anche all'università i ricercatori e i precari in generale sono in mobilitazione. Allora vi leggo quello che è il comunicato che insomma, il testo di un comunicato che sta girando un po' nelle varie liste in tutta Italia, dove si fa un parallelismo a mio avviso davvero importante tra quelli che sono i soldi levati all'istruzione pubblica e alla formazione universitaria e quelli che sono invece i soldi che vengono dati per la costruzione del ponte sullo stretto. Per quanto riguarda il ponte, c'è stata una manifestazione a Messina gli ultimi giorni di agosto, non mi ricordo se era con precisione il 28 o il 29, ma soprattutto ci sarà e sicuramente su questo canale qui sentirete molto parlare quella che è la manifestazione nazionale organizzata sempre a Messina per il 2 di ottobre. In ogni caso il comunicato recita: invadiamo lo stretto, accogliamo con entusiasmo l'appello lanciato dai lavoratori precari della scuola ad invadere lo stretto, incantevole scenario dove si rappresenta la contrapposizione massima tra lo spreco di denaro pubblico da regalare alle solite lobbies e la disperazione di chi è costretto a pagare le conseguenze di queste scelte criminali. Siamo vicini e solidali con questi lavoratori, con questi docenti, con questi studenti, ben consapevoli che quella che si sta ingaggiando non è una semplice battaglia per la difesa di posti di lavoro. La lotta di chi oggi vuole difendere la scuola pubblica è la stessa lotta di chi, come noi, è impegnato nella difesa del proprio territorio e dei beni comuni. Insieme saremo con i precari della scuola domenica 12 dalle 9 a Villa San Giovanni a gridare che non possiamo accettare che in nome della crisi si tagli drasticamente nel mondo della scuola, si inasprisca ulteriormente la precarietà, si attacchino i diritti del lavoro, si militarizzino gli spazi della democrazia. Che non vogliamo che si regalino i miliardi di euro pubblici a banche e grandi imprese, ma pretendiamo che questi soldi vengano investiti per finanziare le vere priorità, come certamente la messa in sicurezza di un territorio fragilissimo, ma anche istruzione e ricerca, fondamentali per il futuro di queste terre. Che non accetteremo nessuna scelta fatta sulla nostra pelle, scelte fatte non per ricercare il nostro sviluppo, ma quello di pochi privati che pensano solo ad arricchirsi. Difendere la scuola pubblica, diritto di tanti e non privilegio per pochi, contrastare ogni forma di privatizzazione dei beni comuni, materiali e immateriali, significa difendere la nostra terra e il nostro futuro. Non ha senso impedire la devastazione del territorio cui andremmo incontro con l'apertura dei cantieri del ponte, se poi i nostri figli non avranno la possibilità di andare a scuola o di poter ricevere un'istruzione e una formazione adeguata. Domenica 12 settembre, scusate, a Villa San Giovanni, Reggio Calabria, il 2 ottobre tutte e tutte a Messina per la manifestazione nazionale contro il ponte. A un anno dalla tragedia consumata tra Giampilieri e Scaletta Zanclea, a un mese dall'alluvione del Regino. Cosa deve succedere per far sì che si receda da scelte folli come il ponte e si inizi veramente a lavorare sui bisogni primari dei cittadini dello Stretto? Fermiamo i cantieri del ponte, fermiamo la riforma Gelmini, lottiamo per le vere priorità. Chiunque si trovasse quindi al sud, innanzitutto il 2 ottobre appunto per la manifestazione nazionale, ma anche insomma domenica 12 dalle 9 a Villa San Giovanni, suggerisco vivamente di andare insomma a fare sentire la propria voce. E allora dopo questa notizia un altro po' di buona musica da salute e felicità, siete collegati su transizionedifase.org, buon ascolto a tutti e a tutte. I wanna see.

lei è bella. Lo so. È passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei, sì, vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Sono sentimenti di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica. Che voglia piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonia, che voglia di piangere, oh. Intorno a lei, intorno a lei, una chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. E il mio amore per lei, che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma questi sono sentimenti di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica. Che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica. Che voglia di piangere, oh. A pronunciare un sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è. Sì, ma forse no. Sì, ma queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il Messico davanti a me. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica. Che voglia di piangere, oh Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica. Che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica. Che voglia di ridere, oh. Vi ringrazio. La prossima è una canzone che è diventata ormai la bandiera di tutti i clandestini d'Occidente, ai quali va la mia solidarietà. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy, don Juan. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum, ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-zum, la comedy don Juan. La comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don Juan. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don Juan. Za tadadam, tadam, tadadetatatam, tadadetatatam, la comedy don Juan. La comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today I am a boy. For today I am a child. For today I am a boy. Why? door. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I'm a child. For today, I am a boy. For today, I'm a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. Allora, dopo Anthony and the Johnson, davvero un gruppo che non si sa, riesce a creare delle atmosfere davvero magiche. Cambiamo un po' registro musicale e proviamo a andare un po' su quella che è stata la musica che mi ha accompagnato durante tutto il mio lavoro estivo. Un po' di dub reggae, da Giamaica vera e propria, sole, palme e tanto relax, che mi sa che ce n'è. Che ce n'è bisogno. Se vi sentite un po' disorientati, appunto dal non sentire così tanti interventi come di solito ne faccio, è proprio perché insomma oggi non è una puntata in cui si può dire molto, a parte che il paese sta praticamente dormendo mentre intorno appunto cioè non c'è altro che crisi economica e non solo, anche e soprattutto culturale. Ma come ricordo, ho detto anche all'inizio, insomma, è venuto a mancare Marcella Di Folco e quindi un po' di tono sobrio ci sta. Vi rinvito, per chi non avesse, si fosse collegato semplicemente adesso da poco e non avesse sentito l'inizio della trasmissione, andare a cercare su un po' in giro gli interventi che magari sono stati pubblicati, video o trascritti, appunto di Marcella Di Folco. Uno in particolare su YouTube è davvero molto interessante, parla della questione delle migranti transessuali e del lavoro di prostituzione che sono più o meno costrette a fare e nelle condizioni in cui queste persone lavorano. Allora, un buon ascolto di nuovo a tutti e a tutte, siete collegati su transizionedifase.org e questa è Salute e Felicità. Potete trovare informazioni su questa rubrica e i podcast di tutte le puntate, questa è la 15ª, quindi bene, andiamo avanti, su frodo.noblogs.org. Buon ascolto a tutti e a tutte. Lombardi. τους πολιτικούς, πολιτικοί μανί, πολιτικοί κολομπάρε, μανιέ σαμπάτι, πολιτικοί κολομπάρε. Ο μπι φε μπι, ο τι φε σινι, ο μπι τάνο μπι, ο μπι γιαν βασινι. Βίβ' λε πρέσιντον, αμπάλ' λε πρέσιντον. Βίβ' λε γενεράλ, αμπάλ' λε γενεράλ. Ομπέι βολα μόγο και λένε δά, ομπέι βολα τσε και λένε δά. Πολιτική μανί, politiki colombare uagne farati politiki colombare obetera fo che la ierre sanfe catera fo che la gigi obetera fo che la ierre sanfe Catere fo chi la gigi, obetere fo, catere fo, catere fo chi la ierre san fe, catere fo chi la gigi. Widio ho, widie, widie, why panka wene? Why panka wire? Why pam pam panka wire? Thank you. Questo che avete appena sentito era Daniele Sepe nel suo album Undrote Fraction, davvero un artista boh, almeno questo album a me fa davvero impazzire. Di Daniele Sepe potrete sentire non solo il concerto ma anche una breve intervista che è stata fatta da Transizione di Fase durante un festival che si è tenuto quest'estate giù in Calabria, il Caulonia Tarantella Festival, appunto svoltosi dal 24 al 28 agosto a Caulonia. Durante questo festival, come al solito, si sono succeduti sul palco davvero grandi artisti, qualcuno più grande, qualcuno a mio giudizio personale un po' meno grande, però c'è stato Enzo Abitabile con i Bottari, Mimmo Cavallaro, Daniele Sepe e Brigata Internazionale, e Yavion Travel e appunto Eugenio Bennato. Davvero comunque il Caulonia Festival, il Tarantella Festival è forse uno dei festival che continua a dare spettacoli in una terra disastrata appunto come la Calabria, dove fare cultura e spettacolo è davvero molto complicato, specie in un posto così insomma, in un paese così piccolo come quello di Caulonia. E insomma, quindi restate all'ascolto di Transizione di Fase, proprio perché avrete modo di sentire sia parte del concerto nei prossimi giorni che l'intervista che Daniele Sepe ci ha rilasciato. E allora adesso continuiamo con questo groove qui, poi ci avviamo verso la conclusione di questa 15ª puntata di Salute e Felicità. Un buon ascolto a tutti e a tutte. Loro fanno promesse che non vogliono mantenere, per saziare la loro fame, la loro brama di potere. Sono uomini piccoli piccoli ma si credono giganti, megalomani ridicoli a tratti anche inquietanti. Sono forti coi deboli ma deboli coi forti, pronti a uccidere per calcolo se ne fottono dei morti. Sono al comando di mute di mastini che sciamano per le strade con istinto d'assassini. Sono iene rognose affamate di carogne, pante cane appena uscite dalle fogne. Allora boom boom, la rabbia avvantaggia, te lo dico boom boom, e la fiamma sale. E ancora boom boom, la rabbia avvantaggia, te lo ripeto boom boom, e il fuoco sale. Succhiano sangue a chi lavora, fanno affari con rascano il fondo fino a quando ogni risorsa non è distrutta, danno la mancia a chi ubbidisce, bastonati a chi protesta, ordini precisi di spaccarti in due la testa. Sguazzano nell'oro accumulato con gli inganni, immuni ad ogni legge perché sono dei tiranni. Amici della mafia e della criminalità, sono la feccia dell'umanità. E allora boom boom, la rabbia avvantaggia, te lo dico boom boom, e la amici del travaglio quotidiano, eppure se ne stanno sempre con le mani in mano. Allora boom boom, la rabbia vampa già, te lo dico boom boom, e la fiamma sale. E ancora boom boom, la rabbia vampa già, lo ripeto boom boom, e il fuoco sale. Dopo le radici nel cemento è il momento di Mr. President Albo Rosi. Watch out Babylonian, mafia macaroni. Fire upon the one the name Silvio Berlusconi. Fire upon the government, lightning upon the station. Sons upon the markers, them killing off me nation. Lord, the youth, them make the youth, them express themselves. Reggae sense, the meaning, peace and love and nothing else. Lucifer rolling out in a one blue Lamborghini. Fire upon the one the name Benito Mussolini. Put the tanks, them make poor people stand up. Structure city, youth, them break relational spot. Investing on the youth, them believe in all of the youth. Them stop pressure down the youth, them stop lying. Well then, Mr. President, we tired of you. From Rome to Milan, 12 tribes of Israel burned down Vatican. Jesus last year, the teacher, love is my religion. Zion is my promised land. Well, President Berlusconi, why you pushing us back? Your lies them done long time, but your mouth still attack. Still your mouth is send you one big bomber clot. We tired to hear enough crap. Well then, Mr. President, We tired of yo, Mr. President. We tired. We tired of you. dopo aver litigato un bel po', diciamo, con il computer e con i vari software per registrare, scaricare, eccetera, eccetera, l'intervento di Marcella Di Folco, quello che vi dicevo appunto che avevo trovato su YouTube, insomma, alla fine, dopo un po' di sbattimento, ce l'ho fatta e quindi avrete modo di ascoltare, sicuramente in una qualità non ottima, ma è un intervento ripreso durante il Pride del 2009 a Roma, e quindi naturalmente c'è molto rumore di sottofondo, ma sono sicuro che orecchie attente saranno capaci di prestare attenzione a quello che Marcella Di Folco voleva dire con questo intervento. Vi ricordo che la videomaker è appunto Federica Pezzolis, che ha un canale davvero molto interessante su YouTube, e vi invito ad andare a spulciare il più possibile, e anche lì troverete dei video molto interessanti davvero, sia in termini di qualità che di contenuti con i quali vengono fatti. E quindi, insomma, orecchie attente, perché non si sente benissimo ma si capisce, e un buon ascolto a tutti e a tutte, siete su Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer su transizionedifase.org. Ordinamento trans Silvia Rivera, Marcella Di Folco, la Presidente, cosa ci dice del Pride 2009? Io mi auguro che questo Pride possa finalmente aprire gli occhi a questo governo cieco che sta chiudendo, anzi sta distruggendo tutti i diritti acquisiti in 50 anni di lotte sindacali, e oltretutto anche apra gli occhi sul problema trans, che noi siamo trattate peggio degli immigrati, che ora sono, quando sono clandestini, sono portatori di reato, e noi abbiamo bisogno invece di essere finalmente riconosciute come cittadine in tutti i sensi, con tutti i loro diritti, nella loro professione, anche nella prostituzione, perché la legge Carfagna sulla prostituzione è un attentato alla libertà dell'individuo, primo perché nega la prostituzione per la strada e quindi la libertà di sesso, e secondo perché non abolisce la legge Merli, quindi proibisce anche la prostituzione in casa, e quindi questo governo ipocrita non vuole dire la prostituzione è un reato, ma fa in modo che lo sia. Sarebbe anche ora che lo Stato si facesse promotore di interventi affinché la società civile non crei ostacoli alle persone trans, poi dopo sono costrette a prostituirsi, ma se gli viene negato tutto, anche quello gli vogliamo negare, cioè voglio dire, la persona trans ha bisogno di essere tutelata, perché la politica dello Stato è una politica repressiva, è una politica proprio transfobica, non ci vogliono vedere perché seguono i dettami della Chiesa Cattolica, che con questo pontefice si è espresso contro il transgenderismo, ed è una vera vergogna, perché qui si riaprono le crociate, si riaprono i fuochi, i roghi. Questa è www.transizionedifase.org. Ovviamente, se volete parlare con noi e con questa trasmissione, dovete parlare con un orso. Ovviamente, orso si scrive KAARS. State ascoltando www.transizionedifase.org. Girl, I know you need some shelter, but you so small, you need some shelter. You're just running around and held to scared to. E anche questa puntata, questa prima puntata di settembre 2010 si avvia alla conclusione. E allora, sempre un po' con un tono sommesso, vi invito ad ascoltare gli ultimi due pezzi più la sigla finale. Il prossimo che ascolterete è The Anchor Song di Bjork dall'album Debut, mentre subito, quello subito dopo, quello diciamo prima della sigla, mi auguro che la sigla invece la conosciate davvero tutti quanti e quindi non ve la presenterò, è un pezzo dei Mium dal loro primo album che si chiama Finally We Are No One e il brano si chiama Don't Be Afraid, You've Just Got Your Eyes Closed. un buon ascolto a tutti e a tutte. E subito dopo questa trasmissione ci sarà il consueto appuntamento tutti i giorni con Out of the Shell, a cura di Car, che si, naturalmente si scrive K-A-A-R. E allora un buon ascolto a tutti e a tutte, ci sentiamo mercoledì prossimo dalle 21 alle 23 col solito appuntamento di salute e felicità. Thank you. Se non l'avete riconosciuta da questi primi 10 secondi siete davvero uno scandalo di ascoltatori di transizionedifase.org. E allora non va bene, questo qui, questo artista che ha segnato gli anni 90 senza alcun dubbio è Aphex Twin, e questo brano si chiama Girl Boy Song, e se non ce l'avete sul computer dovete fare in modo di raccattarlo davvero il più presto possibile. A mercoledì prossimo dalle 21 alle 23 con salute e felicità. Ciao ciao!